milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguardita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. Beh, sai, quando sei allenatore di una grande società come questa è normale che ci sono le critiche se i risultati non vengono. Però la pressione già dall'anno scorso, dovevamo in un momento molto particolare tirar fuori i migliori risultati che potevamo per questa squadra, e siamo, grazie alla vittoria l'anno scorso, quest'anno siamo in questa competizione. La speranza c'è ancora, perché comunque matematicamente noi possiamo ancora qualificarci. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Buon pomeriggio a tutti. Le ultime parole di Roberto Di Matteo: la speranza c'è ancora, invece non c'è più. La Juventus crudele lo ha mandato su una panchina di Hyde Park quando erano le 4 del mattino. Lucky Man Sima fino a un certo punto prende il posto del presunto mago Villas-Boas, elimina il Barcellona, batte il Bayern in finale, alza la prima Coppa dei Campioni blu, aggiunge la FA Cup, è lui il nuovo Harry Potter, ma la bacchetta magica si rompe dopo 263 giorni e a rompergliela sulla testa è la Juventus grandissima, crudele, spietata di ieri sera. Arriva a casa alle 4 del mattino e gli dicono: guardi, si accomodi su una panchina di Hyde Park. Roberto Di Matteo, esonerato mentre era terzo in campionato e ancora matematicamente non fuori dalla Champions League, ma sarà pareggio tra Juventus e Shakhtar, non biscotto ma magari semifreddo, perché conviene ad entrambi, una prima, l'altra seconda, e il Chelsea, campione d'Europa, eliminato. Gabriele Marcotti, super corrispondente da Londra, Times, Corriere dello Sport, ESPN, Wall Street Journal e tutte le altre testate. Ciao Gabriele. Ciao. Lucky Man, Roberto Di Matteo, ma fino a un certo punto. Troppo cattiva la Juventus. Ma guarda, qui bisognerebbe entrare nei meandri della mente di Abramo, perché quello che stiamo dicendo essenzialmente è: Di Matteo non va bene, però se avessero pareggiato a Torino allora andrebbe ancora bene. Sì. Quello che lascia di stucco è che ancora una volta licenziano un allenatore senza avere un piano, perché Guardiola lo ha detto in tutte le salse che prenderà una decisione soltanto per l'anno prossimo. Sì. E a quanto mi risulta il Chelsea non è certo tra i favoriti per Guardiola. Perché no? Beh, adesso ancora meno, perché comunque Guardiola, cioè in un club che è già insicuro di per sé, in un club che comunque ha cambiato 9 allenatori in 9 anni, livelli quasi da Zamparini. Sì, dilettanti, Zamparini e Cellino, dilettanti allo sbaraglio. Questo è vero. E poi perché comunque c'è il Manchester City, c'è il Bayern Monaco, c'è ipoteticamente Paris Saint-Germain, c'è, anche se pochi ci credono, ci sarebbe in teoria anche il Milan, quindi e in più c'è anche quel Guardiola. Guardiola, stiamo parlando, ragazzi, di una persona che in 4 anni al Barcellona per ben 3 volte a gennaio ha cominciato a dire: ma forse questo sarà il mio ultimo anno, non sono sicuro, sono stressato, così. Il problema di Guardiola è che è troppo intelligente, che esamina il suo modo di lavorare in continuazione. Gli vengono tanti dubbi e per questo motivo io non so quanto si senta sicuro per tornare in campo l'anno prossimo, senza Tito Villanova peraltro. Sì, adesso pare arrivi Rafa Benitez sulla panchina dei Blues. Non credo, cioè, no? Tutto è possibile. la classica autocandidatura di Rafa, è stato proposto all'entourage di Abramovich, da quanto mi risulta, i quali gli hanno detto sì, ti faremo sapere, però ad oggi non l'ho ancora chiamato, e da quanto mi risulta il Chelsea annuncerà il nuovo allenatore già domani, quindi credo sia un po' improbabile che sia Rafa a questo punto. Sì, cioè ieri sera Di Matteo è andato a giocarsela a Torino un po' all'italiana, centrocampo fitto come un bosco, nessuna punta vera, trequartisti con buoni piedi a fungere da incursori. La Juventus lo ha distrutto, lo ha letteralmente distrutto, e quindi con il senno di poi, insomma, paga questa partitaccia, anche perché è terzo in campionato dopo un avvio splendido, ha sbagliato questa partita, ma probabilmente anche quella dell'andata, dopo aver vinto quello che ha vinto. Sì, è sbagliato contro Shakhtar Donetsk nelle sue gare, Chelsea ha giocato proprio male, anche quella che ha vinto. Però un paio di cose bisogna far chiarezza. Si può dire se l'ha giocata all'italiano oppure se l'ha giocata alla spagnola, cioè senza punti di riferimento. E poi comunque l'idea di lasciare fuori Torres e di provare questo schema con i fantasisti eccetera davanti, non è un'idea che è stata solo di Di Matteo, un'idea che è venuta dall'alto e che Di Matteo ha accettato di buon grado. Quindi un diktat presidenziale, o fai così o ti cacciamo anche prima della partita. Ma è un suggerimento, no? un pizzino. Di non far più la difesa 3. Ah, ho capito, un pizzino. Intanto Allegri è ancora lì. Dopo, e stasera vediamo cosa succede. Allegri è ancora lì in una condizione che certamente era peggiore di quella di, ed è peggiore di quella di Matteo, soprattutto in campionato, però è stato confermato dalla società. Curioso di sapere chi sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Per chiudere, secondo te? Secondo me non hanno idea. Il mio grosso timore è che torneranno al fedelissimo di Abramovic, Avram Grant, che la finale l'aveva raggiunta e poi era stato defenestrato perché è arrivato Harry Potter o presunto tale via Boas e poi Di Matteo eccetera, ma la storia la conosciamo ed è anche piuttosto divertente. Grazie Gabriele, buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti. Il nostro meraviglioso pubblico che ci ha dato una grossa mano questa sera, ha accolto il nostro invito, l'invito di Antonio alla famosa bolgia, insomma. Era quasi impossibile che capitasse di nuovo la stessa occasione, solo che questa volta l'ho deviata a rasoterra, forse è questo quello che mi ha agevolato a far modo che la palla entrasse. Noi sappiamo bene che se facciamo quelle cose che abbiamo studiato si può fare male questa squadra Chelsea. In tutto abbiamo fatto una grande partita stasera e per questo che abbiamo vinto. Restare umili con i piedi per terra, iniziando già dal campionato e poi andare a Donetsk e giocarci la partita. Giocare la partita, non a pensare al pareggio. No, non siamo una squadra fatta per difendere, quindi dobbiamo attaccare e pensare anche a vincere. Un blues di B.B. King, perché la Juventus ieri sera ha fatto neri i blues. Quindi Alessio Quagliarella, che lo sottolineano tutti i media da top player, che al Chelsea vedono come un incubo, gliene ha segnati 3 in 2 partite, ma davvero ha una media realizzativa spaventosa sulla quale in sede di scelte sarebbe il caso di riflettere quando si fa la formazione, anche perché Quagliarella Vucinic mi sembra la coppia meglio assortita e più in forma in questo momento. Abbiamo sentito Alessio Quagliarella, Samoa, Bonucci, grandissima prova della difesa juventina e di Bonucci e Chiellini soprattutto, secondo me, ieri sera. 800 24 00 24, e siete già tutti convocati e tutti in campo. Messaggi 349-238-6666, ne leggo uno che mi piace. Lo scrive Mario: odio la Juve, sono interista, ma devo riconoscere che ieri sera ha fatto fare bella figura a tutta l'Italia. Oppure uno che non mi piace, già parla di biscotto, cambi mestiere, non ho parlato di biscotto ma di semifreddo. A Donetsk, insomma, sarà importante arrivare in testa al girone, però è chiaro che senza tirare in ballo le parole inopportune pronunciate qualche tempo fa da Buffon, insomma, lo Shakhtar è squadra pazza. Ieri sera, tra l'altro, c'è stato quell'episodio sul campo del Norgelland di cui poi parleremo. Però, insomma, non credo che ci si voglia far del male. C'è chi sottolinea Antonio da Brescia, piccolo particolare, non c'è più Drogba, verissimo. Tra l'altro Drogba vuole tornare subito in Europa per preparare la Coppa d'Africa, dicono le agenzie. Marsiglia in pole position, ma anche la Juve ci spera. Questo sta scritto. Francesco, provincia di Ravenna, buongiorno. Ah, buongiorno, mi scusi, io volevo tornare sull'argomento attaccanti della Juve. Sì. Io sono d'accordo con lei, secondo me Quagliarella e Vucinic sono la coppia più meglio assortita, diciamo così. Sì. Però io rimango scettico sul... Quella con più talento, no, perché anche Giovinco ha un grande talento, però secondo me, soprattutto a livello europeo, ha bisogno di un po' più di calma, un po' più di maturazione, di una maturazione un po' più lenta, non tanto fisica. Sono partite pesanti queste. Io sono d'accordo con lei. Infatti il punto che volevo toccare dopo era questo. Secondo me c'è stata troppa fretta di riprenderci in casa Giovinco. Secondo me non era ancora il momento. Oltretutto hanno impegnato tanti soldi che forse potevano servire per colmare quella famosa differenza con i top club europei che si sono potuti permettere Van Persie o Hulk o qualchedun altro. Ma quegli 11 milioni buttati lì secondo me sono stati affrettati. No, secondo me no. Secondo me era il momento giusto ed opportuno, semmai c'è stata molta fretta nel lanciare subito Giovinco indiscutibile titolare. In quello probabilmente un po' di fretta c'è stata. Poi parliamo di top player, sto cercando le cifre di Quagliarella. Mi sembra segni un gol ogni 66 minuti di impiego Quagliarella. Quindi sono cifre da... Van Persie, sono cifre da... Quagliarella non è un top player, non stiamo a raccontarci che vale Messi, che vale Agüero, che vale questa gente, però Quagliarella è un signor giocatore, ha talento, ha i colpi di classe e secondo me con Vucinic è uno che mette in apprensione comunque costantemente le difese. Alberto, provincia di Reggio Emilia, 800240024, sveglia, tutti convocati. Buongiorno. Vabbè, complimenti alla Juve, per carità, però vorrei focalizzare l'attenzione sulla partita che c'è stata in Danimarca, sì. In particolare il pareggio della squadra dello Shakhtar. Pazzesco. Voglio dire, nei meandri delle leggi europee calcistiche non c'è un qualcosa che vi dia 3, 4, 5 giornate per giocatore? Sentiamo un file audio, stia lì, abbiamo un file audio. Luis Adriano, salta il portiere, Luis Adriano! È il gol del pareggio dello Shakhtar. Avevano restituito però il pallone ai giocatori del Norgeland. Luis Adriano l'ha presa e l'ha messa dentro. In mezzo al deserto, tutti fermi. Tra l'altro vale la pena sottolineare, non era uno di quei soliti episodi per cui butto fuori il pallone perché c'è l'avversario per terra, eccetera. Lì era intervenuto l'arbitro, come sempre deve avvenire. Io, come sapete, sono contrario alla manfrina della palla fuori. Secondo me è sempre l'arbitro, perché è suo compito, che deve fermare il gioco, soccorsi e poi si scodella la palla. Giustamente la palla è stata restituita verso il portiere del Norgelland. Luis Adriano si è comportato da mascalzone due volte. La prima andando a segnare e la seconda poi stigando i compagni ad impedire la restituzione di questo gol. Poi la restituzione grosso modo c'è stata, perché io sono convinto che quel 2-2 inizio ripresa nel Norgelland ci sia stata una certa connivenza, ma come è normale che debba essere. Aggiungo, fosse successo un episodio del genere in Italia, non si poteva uscire dallo stadio per 3 giorni e poi facevamo la conta di chi rimaneva per terra. Mentre devo dire che i danesi, al di là della sorpresa e di qualche giusta e civile rimostranza, non sono andati. Alberto, prego, non si può punire. Non si può punire. Quello, magari 3-4 giornate di squalifica al suo giocatore, giusto per fargli capire com'è. Non risulta che ci sia, non risulta che ci sia, perché era un'azione di gioco, quindi non è totale, semplicemente totale ignoranza. totale ignoranza, semplicemente totale ignoranza sportiva di questo giocatore Luis Adriano, che è anche un buon giocatore, ma che magari, ecco, la punizione può essere questa: avrà qualche estimatore in meno in giro per i campi europei che contano, questo sì, questa può essere una punizione in fieri. Alberto, Reggio Emilia abbiamo parlato, Moreno da Milano, 800240024, numero verde. Presente, signor Gento. Presente, in campo. Io volevo parlare ieri sera dell'ambiente che c'era allo Juventus Stadium. Sì. Che era assolutamente bellissimo. Però vi spiego, la settimana scorsa un suo interlocutore ha detto che praticamente bisogna fidelizzare i tifosi. Ecco, questa è la cosa peggiore per togliere a uno stadio un ambiente così. Le spiego. Ecco, è meglio. 10 anni fa Cantona, o 15 anni fa, aveva detto: una volta i nostri avversari arrivavano all'Old Trafford e come salivano nella scaletta avevano paura. Adesso vado a battere un fallo laterale e vedo solo gente che mangia patatine, mangia panini ed è Manchester, non interessa nulla. Quindi ciò vuol dire che se nello stadio ci metti i tifosi, magari al fattore campo. Se ci metti le statuine, probabilmente cioè, diventa di andare ieri sera, ieri sera non c'erano le statuine, ma non ci devono essere neanche quelli che tirano in campo i panini o le bottigliette. Cioè, se lei sta parlando di intimidazione, io non sono d'accordo. Se lei sta parlando di un ambiente caldissimo e civilmente sportivo, come è stato quello di ieri sera, meraviglioso, allora sono d'accordo con lei. Perché è giusto che i tifosi vadano a fare i tifosi, a vedere la partita, a tifare per la loro squadra, e sto dicendo un sacco di banalità, ma senza intimorire nessuno, perché io ricordo la testa di maiale volata in campo contro Luis Figo, ma posso ricordare, anche se cerco di rimuoverli pescando nella memoria, un miliardo di episodi non solo accaduti nel calcio, che sono stati dei gesti di inciviltà spaventosi. Quindi ben vengano i tifosi che vanno a fare il tifo, non dico come a teatro, perché lo stadio è una cosa diversa, però nella maniera più civile possibile. Se poi vogliono mangiarsi un panino e non fare gli scalmanati, meglio ancora. Meglio ancora se non ci sono troppi striscioni o troppe fazioni o troppi gruppi organizzati. Si va allo stadio, si guarda la partita, si fa il tifo, si va a casa. Questo è il mio modo di vedere lo sport. Giuseppe, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Secondo me la partita di ieri è stata la parte più semplice della qualificazione, forse qualificazione di Juventus, perché non è assolutamente scontato che porti a casa un pareggio da Donetsk. Juventus è una squadra che non sa gestire la palla, la partita, perché deve attaccare, deve sempre mettere pressione. Lo Shakhtar invece è una squadra pazza. Che Shakhtar è una squadra pazza che però anche pareggiando arriva prima nel girone. Quindi sì, ma siccome si qualifica lo stesso anche perdendo, sì. Non vedo paure nello Shakhtar nell'andare a vincere la partita. No, certamente. La Juventus dovrà stare molto attenta, anche perché giocherà in un ambiente difficile, farà molto freddo. Gioca appunto contro una squadra che ha grandi qualità e non grandi pressioni. La qualificazione deve andarsela a conquistare, però sarebbe clamoroso se non se la conquistasse a questo punto e dopo quello che ha fatto. Io non ci credo, non ci voglio credere. La pizza è la più semplice, basta la pasta della pizza, il pomodoro, un po' di mozzarella e l'origano, anzi un po' d'olio anche alla fine, a crudo. Il presidente è assolutamente convocato. Simone da Brescia, si parla solo ed esclusivamente di calcio, non ci sarà mai un vero cambiamento, peccato, ma se parliamo di altri sport tutti i giorni, ma chiami, ma parliamo di quello che vuole, siete convocati tutti, non solo i calciofili. Sarebbe stato bizzarro oggi non parlare di Juventus Chelsea, di Matteo Cacciato, no, in un programma di sport. Parliamo di freccette, se volete. Possiamo anche farlo, eh? 800240024. Io invece voglio parlare, perché ero convocato, lo zar di tutte le Russie, Pietro Viarkov. Ciao Pietro. Ciao a voi. Ciao. Senti, banalissimo, vedi qualche somiglianza tra questa Juve e la tua? No, sinceramente la mia mi sembra un po' più forte, però sì, in questo momento insomma per quelli che c'erano ieri in tribuna o dietro i microfoni? Come no? Rispetto ad allora, secondo me c'era più in quella squadra più grandi giocatori rispetto adesso. Adesso ce n'è qualcuno, ma allora, quando si è vinto quella coppa, la squadra, secondo me, era una delle squadre più belle da vedere e più forti. Quanto vale allora questa Juventus? Io continuo a sostenere le prime 8 d'Europa, di più non lo so. No, questa squadra vale molto, però se andiamo a vedere il Barcellona, andiamo a vedere il Bayern quest'anno, andiamo a vedere altre squadre, forse hanno qualcosina in più. La Juventus è forte nel campionato italiano, secondo me lo rivince perché è la squadra migliore. Però in Europa forse hanno qualche difficoltà in più. Cioè, non fa testo comunque ieri sera questo il Chelsea, perché io l'ho visto anche sabato, non è in un momento abbastanza felice nel suo cammino. Infatti poi hanno esonerato anche Di Matteo e hanno qualche problema soprattutto in fase offensiva. Sì. Ieri sera io non ho mai visto neanche un tiro e mezzo in porta, infatti un po' poco per una squadra che fino all'anno scorso era la campione d'Europa. Sì, c'era Drogba, c'era magari altri giocatori. Sì. Di Matteo ha preparato una partita forse un po' troppo attendista, no? Sì, poteva anche essere giusto una partita attendista ripartire in contropiede, ma ripartire in contropiede con giocatori che non hanno mai tirato, che tirano mai in porta, insomma diventa difficile. Forse verrà impostato in modo diverso, magari essere più una squadra più portata all'attacco che nella difesa, come hanno fatto ieri sera, perché appunto arrivare fino in area di rigore della Juventus era molto difficile. Se non porti molti uomini, ne lasci solamente uno, diventa difficilissimo. Sì. Ieri sera 3 o 4 volte hanno fatto dei contropiedi bellissimi sulle fasce e tutto, ma nel momento di mettere in mezzo la palla non c'era nessun giocatore del Chelsea. Sì, è impossibile far gol così. Sì, sì. Da grande difensore ti chiedo, Bonucci, Chiellini, Barzagli in questo momento sono davvero un terzetto difensivo fortissimo a livello europeo? Sì, sono forti in questo momento, perché hanno una squadra che li supporta, nel senso che quando non sono in possesso di palla tutta la squadra partecipa. Sì. Alla fase difensiva, e il centrocampo protegge moltissimo questa difesa, perciò hanno minore difficoltà, perché pur magari essendo saltati c'è sempre qualche centrocampista di rientro che gli dà la mano. Ed è per questo che dico che, tolto Pirlo, l'uomo fondamentale di questa Juventus si chiama Arturo Vidal. Penso di sì. L'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, però era un giocatore importante. Quest'anno invece sta diventando un giocatore determinante per questa squadra, perché lotta, contrasta, riparte ed fa pure gol, cosa che magari prima non faceva, e adesso è un giocatore, secondo me, migliorato moltissimo e si è completato moltissimo in questi 2 anni alla Juventus. Vero. Pietro, in Italia la Juventus grande favorita, avversario principale credo le polemiche che sono tornate a circondarla, come quando si giocava. Sì, ma non posso capire, però non riesco a capire cosa possa c'entrare la Juventus perché se l'Inter gioca contro l'Atalanta c'entra la Juventus, ma non penso. Ma comunque, per quanto riguarda quella situazione, io ho rivisto parecchie volte quel rigore. A me sembrava obiettivamente che non fosse in area, mi sembrava fuori. Perciò parlare di rigore è un po' difficile. Quello di domenica? Sì. Quello di domenica, secondo me, era fallo. L'arbitro non ha saputo valutare dove fosse stato commesso quel fallo. Sì. Ha sbagliato a non fischiare. Dico, non era dentro, a me sembrava fuori. Però cioè, è difficile giudicare, cioè Colombo Viola è facilissimo. Sì. O anche rivederlo al rallenti è facile, ma durante l'azione poi parlare di complotto ancora verso l'Inter, mi sembra si sia tornati ad un certo vittimismo degli interisti, questo. Sì. Non mi piace, a cominciare dal presidente Moratti, questo non mi piace. Per chiudere invece, il povero Milan stasera in Belgio, poi ha lo Zenit in casa, domenica c'è un impietoso Milan-Juventus, almeno viste le due squadre, non gioca Pato, è notizia di oggi, gioca Bojan e Jeppes, che almeno Bojan è ancora uno vivo, però non mi sembra che il Milan abbia risolto molti problemi. No, ha risolto poco. Secondo me è anche determinante la partita di questa sera, perché non è che vanno ad affrontare uno squadrone. L'Anderlecht è una squadra di bassa classifica. Sì. E se non riesci a vincere e qualificarti con questa squadra, obiettivamente vuol dire che la tua squadra non è all'altezza in Europa e non è neanche all'altezza nel campionato italiano, perché tutte le problematiche che ci sono viste in queste settimane. Sì. Grazie Pietro, bocca al lupo. Niente, ciao, grazie. Grazie Zar. Pietro Vjerkovod. 800 24 00 24. Tocca a voi, Paolo da Rimini, poi vi faccio sentire una cosa carina, eh? Paolo, ciao caro. Mi dispiace che Vierco se ne sia andato, avrei volentieri chiesto a lui un'opinione sulla moviola in campo dopo quello che ha detto sul fallo così contestato. A te invece, Carlo, vorrei chiedere una cosa di basket, cambiando quindi per un attimo sport. Le vittorie consecutive di Siena sono un poco fatto, o invece la quadratura sono un poco fatto, oppure se invece la quadratura del cerchio che la squadra ha trovato, e soprattutto un tuo pronostico sulle tre italiane in Eurolega. Dura, non credo che Siena abbia ancora trovato la quadratura del cerchio. È una squadra forte che ha un organico profondo. Non credo sia ancora, soprattutto dal punto di vista difensivo, quella che Banchi vuole. Ci arriverà con il tempo, secondo me non prima di gennaio. Quanto alla qualificazione delle nostre in Eurolega, per Milano sinceramente la vedo male. Siena immagino passerà il turno, così come Cantù, ma sono pronostici buttati lì perché mancano ancora diverse partite, diverse situazioni alla fine. Intanto, per rimanere nel basket, c'è stato l'esordio di Mike D'Antoni sulla panchina dei Lakers a Brooklyn. I Lakers hanno figuratevi, hanno vinto, cosa dovevano fare, con Kobe Bryant che ha finito con 25 punti ma ha segnato gli ultimi 8, quelli decisivi, e dunque i Lakers hanno vinto questa partita 95 a 90. Sentiamo una cosa. Allora, abbiamo, ho letto le dichiarazioni di Van der Meyde, no? Ex giocatore idolo interista, nella presentazione della sua biografia, e ho costretto Matteo Caccia a leggere un brano lui interista, a leggere un brano di ciò che dice un suo ex idolo. Poi un giorno arriva l'offerta dell'Inter, 8 milioni. Dopo una settimana a Milano, telefonai a David Hent, team manager dell'Ajax, implorandolo di riportarmi a casa. Passare dall'Ajax all'Inter è come lasciare un negozio di paese per una multinazionale. Tutto estremamente professionale, un giro di soldi pazzesco. Il presidente, che dopo ogni vittoria allungava ai giocatori 50.000 euro. Avevo uno zoo nel giardino di casa all'epoca. Cavalli, cani, zebre, pappagalli, tartarughe. Diana, la mia prima moglie, era una vera malata. Per lei rifiutai un trasferimento al Monaco. A Monte Carlo ci sono solo appartamenti, mi disse. Dove li mettiamo tutti i nostri animali? Una sera, ricordo, scesi in garage, al buio. Intravidi una sagoma imponente e udii suoni strani. Aveva comprato un cammello. All'Everton mi proposero uno stipendio di 37.000 euro a settimana, più del doppio di quello che percepivo all'Inter. Ci andai di corsa. La prima cosa che feci fu comprare una Ferrari e andare a sbronzarmi al News Bar, uno dei locali più in voga di Liverpool. La mia giornata terminò in uno strip club. Andavo pazzo per le spogliarelliste. Lì conobbi Lisa e me ne innamorai subito. Nel suo mondo, bere e sniffare cocaina era una cosa all'ordine del giorno. Questa si chiama Espiazione di Matteo Caccia per un suo vecchio idolo, Andy Van Der Meyde, che ne ha combinati di tutti i colori. Avete sentito? Soldi giravano a valigie. Dopo la vittoria, pam! Ogni vittoria 50.000 euro. A cranio. Qui ed ogni giorno all'800 24 00 24. Pessima notizia per i tifosi della Roma, perché la Mela si è fatto male, lesione legamentosa alla caviglia destra, 3 settimane di stop per il giocatore più in forma della Roma di Zeman. Ernesto da Caserta, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo solo dire che sono d'accordissimo con Vierkoud sul discorso della Juve. Ieri sera ha giocato bene, però diciamo che non è che il Chelsea abbia fatto chissà che cosa. E poi non anche so perché cosa... però anche perché la Juventus l'ha aggredito e lo ha costretto in qualche modo a giocare quella partita, perché secondo me la Juventus ha giocato una partita di un'intensità spaventosa. Indubbiamente indubbiamente, ma ieri sera si è vista forse la migliore Juve, però si è visto forse il peggio Chelsea, quella ha coinciso Beh, la verità sta nel mezzo, tu fai anche la partita che gli avversari ti costringono a fare, no? Vabbè, però arrivare a Torino in difesa, sapendo che la Juve gioca a questo modo, è un po' suicida la cosa. Mi faceva ridere il fatto che con Hazard prima punta là davanti, a che cosa? Sì, Omata. Era un po' rischiare l'italiano. Sì, era un po' mettersi lì e dire sì, venite avanti voi. Questa partita e va bene così. Mentre non sono d'accordo con Vierco sul rigore di domenica, anche se stiamo parlando del rigore di altro, ma se Milito forse segna qualche gol davanti alla porta da solo, forse le cose vanno meglio. D'accordo con lei. Quello era fallo, se Milito segna quel gol che era più facile da vedere rispetto al rigore, l'Inter vince una partita che comunque ha meritato di pareggiare e non di vincere, ma siamo sempre lì, possiamo discutere fino a notte. 800 24 00 24, lo farei volentieri. Allora, c'è una notizia di cronaca orrenda che è questa: l'ex pugile portoricano, tre volte campione del mondo, quindi un grande della box, Héctor Macho Camacho, 50 anni, molti se lo ricorderanno, è ricoverato in gravi condizioni dopo che nella notte è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Lo hanno riferito i media portoricani, a quanto pare stava guidando la sua auto, gli hanno sparato in testa ed è in condizioni gravissime. Sergio, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Carlo, complimenti. Grazie. Secondo me non è più la Juventus la squadra più forte del campionato. No. Perché ha già mostrato il top con ieri sera, ma tra due mesi lo sarà la Fiorentina. Perché nel momento in cui riuscirà a trovare anche l'estrema ratio del gol, non ha assolutamente paragoni a livello di gioco. A livello di gioco posso essere d'accordo con lei, l'ho già detto ieri, la squadra che gioca meglio la Fiorentina, però mi sembra poco profonda per competere fino in fondo per vincere lo scudetto e soprattutto adesso ha un grande vantaggio rispetto a tutti gli altri, compreso il Napoli e compresa l'Inter, non gioca le coppe. Non solo non gioca le coppe, ma gioca anche leggerissima, perché nessuno le chiede niente in questo momento se non di essere se stessa, quindi una squadra molto bella, una squadra che gioca leggera, spensierata, che ha talento, che ha un centrocampo formidabile e che riesce a vincere anche quando Jovetic è in jeans che firma gli autografi a bordo campo. Io credo che però non sia sufficientemente profonda dal punto di vista della qualità dell'organico per poter competere in questa stagione per il titolo. Mi auguro di sbagliarmi, perché sarebbe bellissimo vedere la Fiorentina lottare fino all'ultimo respiro, sarebbe un bel sogno. Allora, a proposito di sogni, c'è quello di Alonso. Ha suonato la campanella di Wall Street ieri, come sapete, adesso dopo questa kermesse si fa sul serio in Brasile. Sentiamo cosa ha detto Alonso. Rimane tutto molto aperto, sicuramente è stato un campionato con su e giù per tutti quanti. Adesso arriviamo all'ultimo Gran Premio, molto decisivo, dobbiamo rimanere molto concentrati, fare il nostro lavoro, fare la gara perfetta dalla nostra parte. Poi se è abbastanza o no per vincere il mondiale dipende un po' dai risultati degli altri, quindi prima concentriamoci su di noi e poi, passato il traguardo, vediamo che posizione è Vettel. Sicuramente noi siamo una posizione di svantaggio, siamo una posizione dove in teoria abbiamo la seconda posizione, diciamo, e lui ha molto da perdere e poco da guadagnare. Noi invece abbiamo tanto da guadagnare e poco da perdere, quindi sicuramente dormiamo più tranquilli noi. Questo era Alonso, battaglia psicologica tra Alonso e Vettel, tra Alonso e la Red Bull. Conta questo più di ogni altra cosa, e lo sappiamo in questa settimana di passione. Battaglia psicologica, però mi pare molto psico e poco logica, tra Cellino e la Roma. Sentiamo il presidente del Cagliari. La Roma ci arriva da anche no, a Cagliari. No, le istituzioni non è nessun problema, non scherzi. Non mi chiamo Vallanza. E neanche con la Roma, scusa. Però. Ma con la Roma le voglio bene. Però vorrei sapere chi cazzo è la Roma, scusi. Io sapevo che c'era Franco Sensi, Rossella Sensi, la famiglia Sensi. Adesso di chi è la Roma? C'è un organigramma, Gentallotta è il presidente della Roma. Me lo presenti, non l'ho mai visto. Io vado in Lega, c'è il presidente. Un presidente, cioè, perché si viene a giocare a Cagliari? Poteva non venire, si è partita a vita, è venuto, ha giocato la partita. Perché il calcio è fatto per essere giocato, non per essere giocato nei tribunali, così, strumentalmente. Non lo nomini, per favore, non lo conosco. Io quando prendo una decisione dico sì o no, ne rispondo che ho i poteri per farlo. Loro che poteri hanno per farlo? Io, se fossi, fosse presidente della Roma, mi dicesse, guarda, io vorrei sapere di chi è la Roma, perché questo è dell'Unicredito, va benissimo. Allora, è l'Unicredito che vuole darmi un vantaggio da un malinteso. La mettiamo così, se è così che lo dico. Lei a parte invertita avrebbe fatto lo stesso? Ma sta scherzando. Ma io se vuole la Roma, non è che andiamo a giocare a partita di ritorno se siamo così. Ho detto Cellino, molto psiche, poco dramma. Torniamo alla buffonata di quella partita non giocata con la Roma, ed è una storia che andrà avanti per chissà quanto tempo, ma noi non abbiamo premura e saremo qui a raccontarvela. C'è chi mi dice che sottovaluto la Fiorentina, c'è chi mi dice la Fiorentina gioca meglio della Juve, ma che cavolo state dicendo? Avete mai visto una partita della Juve? Io dico che la Fiorentina gioca un calcio bellissimo, spensierato, non ha la potenza della Juventus, chiaramente non sarebbe stato in grado di giocare ieri sera una partita dell'intensità anche fisica che ha giocato la Juventus, però credo che nel nostro campionato possa rimanere lì davanti a lungo. Chiudiamo con Alessandro da Rovigo, tra i convocati di oggi. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Eccoci. Sono qui. Sì, dica. No, dica lei. Chiamato lei, pronto, dica. Sì. Volevo sapere quanto vale il passaggio da Champions. Quanto vale il passaggio da Champions, il passaggio del primo turno? Una quindicina di milioncini. Questo milioncino più, milioncino meno, e questo è ciò che si gioca in Milan questa sera a Bruxelles. Io dico che per il Milan sarà dura passare questo turno, ma non voglio gufare, farò un grande tifo stasera per il Milan a Bruxelles. Farà un grandissimo tifo per il Milan contro Spalletti nell'ultima giornata contro lo Zenit, ma sono un po' pessimista. Vi aspetto domani, grazie a Franco Piantanida, autore di questa trasmissione, a Roberto Scaltritti in regia, domani dalle 2 alle 3, tutti convocati. Questa luce sparata, sembra usando.